Piazza 24, i gialli della storia. Mio padre ha iniziato a lavorare lì nel 26 e lui si adattò a tutte le condizioni. Il suo mezzo di trasporto che non mollava mai era la bicicletta, che faceva settimanalmente, venendo al lavoro, dal paese, da Calusco fino a Sesto, e ritorno. E quello che mi diceva, che allora non è che c'erano mense, mi diceva, era diventato un gran mangiatore di arance, perché si mangiava e si beveva con l'arancia. E non so, il mio cuore è rimasto all'epoca delle fabbriche. Un rigore calvinista, la ricchezza che deve essere utilizzata per servire e non per servirsene. Così Indro Montanelli descrive la famiglia Falck. E quella dinastia, una delle più importanti dinastie italiane, è sempre stata guidata da un forte rigore etico. Grandi stabilimenti siderurgici, ma a fianco la scuola Montessori, le colonie marine, le borse di studio per i dipendenti, insomma un vero esempio di capitalismo solidale. Ma la storia di Enrico Falck e della sua famiglia è anche la storia degli operai e dei lavoratori che quell'esempio hanno vissuto e condiviso. Oggi a Mix24 raccontiamo quelle storie e quelle esperienze basate sull'etica e sull'acciaio. Il piano industriale dei Falck ha radici antiche e solide. È un'ascesa senza sosta dal 1906, quando Giorgio Enrico Falck, classe 1866, getta a Sesto San Giovanni le basi di un impero siderurgico privato che non ha eguali nel nostro paese. All'inizio del secolo, si intende, la Falck non è ancora la Falck, bensì la società anonima Acciaierie e Ferriere Lombarde, capitale sociale 6 milioni di lire, suddivisi in 30.000 azioni. Dal nonno alsaziano, Georges Henry, Giorgio Enrico ha preso il nome, il carattere e la creatività tecnologica. Dalla famiglia comasca della madre, Irene Rubini, ha ereditato invece la determinazione. L'esperienza siderurgica l'ha presa nelle ferriere di famiglia, a Dongo e Vobarno, nonché con un apprendistato da operaio nella Ruhr. Era la figura di un industriale di un certo tipo, una certa cultura, una certa ideologia, che era cresciuto di pari passo con i suoi stabilimenti. Giorgio Enrico Falck è uno degli esempi di un imprenditore che si butta in un'impresa di costruzione di un'industria e lo fa su basi strettamente private, sulla base dei suoi capitali. A debito fonda le acciaierie. Compra questa, credo, fattoria a Sesto San Giovanni. Chi lo finanzia è Carlo Feltrinelli. Nel marzo 1908 viene inaugurato lo stabilimento Unione, a cui si affiancano nel giro di un decennio lo stabilimento Concordia, il Vulcano e il Vittoria. Un complesso gigantesco, i cui impianti sono collegati da un treno che attraversa Viale Italia. Si fondono tonnellate di acciaio, si producono ghisa, lamiere, tubi saldati e corderie d'acciaio. Alla fine degli anni 40, gli stabilimenti Falck impiegano 9.000 lavoratori. Presto, in quello stabilimento lavoreranno più di 9.000 operai e Falck pensa anche al loro benessere. Verso quei lavoratori c'è rispetto e attenzione. In poco tempo vengono costruiti un villaggio e una rete di servizi. Così trasformano Sesto San Giovanni, che diventa un vero e proprio polo industriale. Il villaggio Falck rappresenta un intervento, una realizzazione di Giorgio Enrico Falck, che testimonia una capacità di guardare lontano. Io desideravo studiare. E mia mamma mi disse: guarda, se tu studi, la Falck danno le borse di studio, se vuoi andare avanti a studiare devi metterti d'impegno. Allora io non ho una grande intelligenza né una grande memoria, però una volontà di ferro. E allora studiavo come una matta e prendevo sempre le borse di studio e sono riuscita a diplomarmi. La trasformazione è profonda, perché in quest'area si vengono a inserire popolazioni che vengono dalla campagna ma che assumono rapidamente le caratteristiche del proletariato di città. dal villaggio Falck si diceva andiamo a Sesto, come se fossero due entità completamente separate. In questo Falck vede molto, molto chiaramente, c'era anche una vasta popolazione rurale che avrebbe potuto fornire una mano d'opera non qualificata e relativamente a basso costo a un'industria in crescita. La partecipazione dell'Italia alla Prima Guerra Mondiale porta una nuova stagione di crescita all'industria Falck. È allora che Enrico comprende, per espandersi con la sua produzione d'acciaio, il problema maggiore è quello dell'energia. Così decide di autoprodurla per alimentare i suoi stabilimenti e nel 1917 inaugura la sua prima centrale idroelettrica. Per tutto il periodo fra le due guerre, l'utilizzo dell'energia elettrica e del rotame fa della Falck il maggior produttore privato d'acciaio in Italia, principale concorrente della grande industria pubblica Ilva. Negli anni 20 e 30, la politica industriale fascista, che protegge le industrie pubbliche, rischia di danneggiare i Falck. Ma Giorgio Enrico risponde all'autarchia aumentando gli investimenti e le innovazioni tecnologiche. All'inizio degli anni 30, Mussolini si accorse che l'Alto Adige parlava tedesco e non gli piaceva niente gli italiani. Allora chiamò l'Ancia, chiamò noi, chiamò la Magnesio, i Montesi, e disse: voi dovete industrializzare Bolzano perché quella è una landa che parla solo tedesco. Allora mio zio, lo zio Bruno, nel 1933 iniziò il lavoro di costruzione delle acciaierie di Bolzano, importando manodopera dal Bresciano e dal Veneto, che erano due aree depresse. Il 21 marzo del 1935, io all'età di 33 anni firmai l'atto di costituzione delle acciaierie di Bolzano. Unica materia prima, la potenziale creazione di centrali idroelettriche e quindi la possibilità di avere dell'energia elettrica idraulica a basso prezzo. Il regime sviluppa delle grandi strutture, per esempio il piano dell'acciaio degli anni 30 fu messo in atto dal fascismo con la costruzione di alcune grandi acciaierie a ciclo integrale, mentre la Falck, questo tipo di industria di quell'area settentrionali, sono ancora industrie che procedono utilizzando come materia prima il rottame. Siccome l'Italia non ha molto rottame, questo significa una forte dipendenza dall'estero. Il 1934 è un anno chiave per l'industria Falck. La produzione è in pieno sviluppo al punto che anche il regime fascista lo osanna. Lo stesso Mussolini si reca a Sesto San Giovanni per visitare la fabbrica e nello stesso anno Giorgio Enrico Falck diviene nominato senatore del regno. Ma con l'ingresso dell'Italia in guerra, nonostante la produzione sia stata modificata per rispondere alle esigenze belliche, la richiesta di acciaio va in crisi. Col procedere della guerra le condizioni di lavoro diventano sempre più dure, al punto che nel 1943 la manodopera della Falck entra in sciopero. Le truppe naziste che occupano il territorio deportano in Germania 95 operai. Dai campi di lavoro forzati torneranno soltanto in 35. Sesto fu definita la Stalingrado d'Italia perché gli operai delle fabbriche di Sesto nel marzo 1944 emularono l'azione che fu fatta a Stalingrado nell'inverno 1941-42 dagli operai di Stalingrado. Chi scioperava non poteva non sapere che quello sciopero aveva un valore politico. Mio padre aveva 41 anni quando venne deportato. Poi mi è stato detto che è stato arrestato come organizzatore dello sciopero nella fabbrica. Può essere, perché i giovani non sapevano neanche che cosa fosse lo sciopero. Mio padre aveva sempre in casa questi manifestini che propagandavano lo sciopero. Li metteva la mattina nelle scarpe, li portava in fabbrica e li metteva negli armadietti dei suoi compagni di lavoro. Quando fucilarono Migliorini e De Candi al villaggio Falck, che erano due lavoratori della Falck, gli avevano trovato dei manifestini in casa. Dopo il 1943 il Partito Comunista Italiano chiede ai militanti della Falck di organizzare e coordinare i partigiani della zona. Giovanni Falck e suo fratello Enrico, che hanno sempre manifestato una certa distanza dal fascismo, entrano a far parte del Comitato di Liberazione, ma entrambi vengono arrestati. Sarà grazie all'influenza del senatore Giorgio Falck che riacquisteranno la libertà. Dopo il 1945 sarà proprio Enrico a prendere la guida della fabbrica che in quel momento è il maggior complesso siderurgico del paese. Enrico ha uno spiccato senso morale, al punto che quando nel 1948 viene eletto al Senato, per evitare un eventuale conflitto di interessi, lascia la presidenza a suo fratello Giovanni. In quegli stessi anni gli Stati Uniti decidono di aiutare la rinascita economica dell'Italia attraverso il piano Marshall. Gli Stati Uniti si rendono conto che è il loro interesse costruire, prima di tutto dal punto di vista economico, dei partner, dei mercati che possano dare sbocco alla loro industria, col quale la loro industria e le loro produzioni possano integrarsi sotto i più svariati livelli. Sono gli anni forse più ricchi per la produzione della Falck, che però non ha in mente l'idea di uno sviluppo di massa, di produzione di massa, quale invece è nei piani delle industrie della Finsider, dell'Igeri, eccetera, eccetera. È un mondo nuovo. La fabbrica rimodellata dal miracolo economico è veloce, efficiente, produttiva e non ammette intralci. Ma sono anche gli anni in cui sindacati e classe operaia perdono le posizioni conquistate alla fine della guerra. Non ci fu più collaborazione, anzi, ci fu astio, ci fu tempo duro e riprese lo strapotere padronale. È il 1954, l'Italia scopre il boom economico. In un decennio il reddito pro capite cresce da 350 a 571 mila lire. Anche gli investimenti nell'industria aumentano a ritmi vertiginosi. Ma se è importante quanto si produce, ancora più importante è cosa esce dalle nostre fabbriche. Tra il 1959 e il 1963 la produzione di auto aumenta 5 volte. Sulle strade arrivano 760.000 vetture. 1,5 milioni di italiani hanno il frigorifero. Anche la Falck cambia faccia. Arrivano macchinari mai visti. Si modificano gli impianti. I nuovi forni americani, chiamati Truman, in 3,5 ore fondono 67 tonnellate di rottami. La produzione di acciaio della Falck raddoppia. Dalle 273.000 tonnellate del 1938 alle 600.000 del 1959. Le fabbriche di Bolzano, dirette dal fratello minore, Bruno Falck, sono le acciaierie più moderne d'Europa. Le politiche regionali, intanto, spingono il gruppo a espandersi verso sud, con grandi investimenti nelle acciaierie di Napoli, volute dal fondatore Giorgio Enrico negli anni 20. Siamo in pieno boom economico, l'Italia sta rialzando la testa ed è in questi mesi che la Falck introduce una serie di riforme sociali destinate ai lavoratori. Tutta questa struttura che gli consentiva sostanzialmente, qualcuno direbbe, e lo disse anche, di avere sotto controllo tutto. Sia quando tu lavoravi sia quando non lavoravi. Provvedevano a noi, ci davano il lavoro, ci davano la casa, la scuola, le colonie, tutto quello che ci serviva, quindi erano la sicurezza per noi. Questo era un sistema che da un lato dava una grande sicurezza e dall'altro un grande elemento di controllo sociale, perché naturalmente se uno usciva dalla Falck, usciva dalla casa, usciva dall'asilo, usciva dalla chiesa, cioè era improvvisamente abbandonato a se stesso. Le fabbriche, come dico, qui erano tutto, la vita. La vita degli operai al villaggio Falck appare tranquilla, ma anche qui arriva il 1969, l'autunno caldo. Ben presto gli scontri si manifestano con inaudita violenza. la struttura organizzativa, i consigli di fabbrica, vi dicendo, fu quella la rivoluzione per noi. Perché lì c'è stato proprio un braccio di ferro forte, proprio lì si è cambiata secondo me una situazione. E qui ci sono uomini che hanno lottato nella resistenza, si sono battuti all'interno del Partito Comunista per la legalità e i loro figli hanno fatto parte delle Brigate Rosse, hanno lottato con la stessa esasperazione contro quel partito e quei partiti che il loro padre aveva contribuito a costituire. Ogni giorno decine di arresti ingrandiscono la mappa dell'eversione in un crescendo che lascia i più senza fiato. Spesso forse non ci si rende conto abbastanza che il terrorismo come fenomeno sociale è diventato quasi una componente del nostro vivere quotidiano. Beh, noi l'abbiamo vissuto perché avevamo al nostro interno, soprattutto in uno stabilimento di Sesto, una colonna, la colonna Walter Alase delle Brigate Rosse. Che lavorava con me, avevo l'armiere della Walter Alase. Poi invece ho conosciuto, che lavorava ancora con me, l'addetto ai collegamenti tra chi era in Italia e chi era in Francia. Poi il terzo invece era il magazziniere delle armi, per dire erano tre elementi di primo piano. Abbiamo avuto purtroppo nel novembre dell'80 un dirigente ammazzato. Lui era il direttore dello stabilimento più difficile, perché era il stabilimento più grosso, dove c'erano le acciaierie. Era una persona estremamente dialogante con le maestranze. E lì io credo che ognuno di noi ha capito il profondo significato della parola terrorismo, perché eravamo terrorizzati, ma eravamo terrorizzati non solo perlomeno, pensando che poteva riaccadere, per il fatto che era accaduto. Dopo la morte di Giovanni nel 72, per 10 anni sarà il fratello Bruno a guidare la fabbrica e lo farà in un momento difficilissimo. La sua risposta alla crisi sarà quella di mettere in corsa una serie di iniziative dirette alla crescita e allo sviluppo produttivo. Ma sarà proprio quella crescita a determinare una crisi terribile alla metà degli anni 70. La FALC produce troppo rispetto alle richieste. Era una crisi fondamentalmente da sovrapproduzione, fondamentalmente da quello e dal fatto che appunto si era stimato un incremento quando non esistevano le cause, cioè il rifare l'Europa, il fare andare avanti la Cina, eccetera, perché questo fosse necessario. E dal 75 in poi invece ci fu una crisi della domanda che sfociò poi nel 1980 nella dichiarazione della crisi manifesta, articolo 58, decretata dal commissario d'Avignon. Ogni paese non poteva produrre più di tanto. Quindi in funzione del dato statistico storico delle produzioni di ogni azienda, di ogni unità produttiva, non si doveva superare una certa quota. Nel 1982 c'è la necessità di rileggere completamente la politica industriale dell'acciaio. Alla guida c'è adesso Alberto Falck, con al fianco il cugino Giorgio, ma anche per loro la strada sarà tutta in salita. In più, i due hanno caratteri opposti. Il primo è riservato e metodico, l'altro invece è irruento e geniale. Il connubio sarà esplosivo. Alberto Falck era l'uomo di lavoro e chiesa. Lui era molto legato al mondo cattolico e le cose le faceva in silenzio. Vale a dire, l'incidente grave del 1989, ci fu un morto e 4 feriti gravi, la famiglia, di cui Alberto è stato l'artefice, hanno indennizzato tutti i lavoratori e il lavoratore che ha avuto l'incidente più grave aveva un bisogno psicologico, abitava a Lenna, Alta Val Brembana, la Fagli mise a disposizione un psicologo che 3 volte alla settimana partiva da Milano, andava su a Lenna e ha aiutato questo ragazzo che aveva 27 anni a uscire da questa crisi. Questo era il suo stile. Dal 1975 al 95 la siderurgia per me non ha dato frutti e quindi noi abbiamo dovuto sacrificare parte del patrimonio. Per la Falck gli anni 80 sono un decennio orribile. L'indebitamento della società è pari a 2/3 del fatturato. Alberto è ormai sempre più convinto della necessità della dismissione. Tenendosi sempre lontano dalla ribalta, governa l'azienda cercando di evitare traumi sociali e ferite troppo profonde nel capitale di famiglia. Il cugino Giorgio, al contrario, un romantico incantatore, sulla ribalta civile. L'aria da corsaro del nord, i capelli scompigliati dal vento delle regate, è un divo da prima pagina al fianco della seconda moglie. Nel 1990, per uscire dalla terribile crisi della siderurgia, si tenta una nuova strada. La Falck realizza una fusione con l'Ilva, un punto d'incontro tra il pubblico e il privato, ma l'esperienza si rivelerà un fallimento. Negli anni 90, quando si stava discutendo sulle due strategie, l'ultimo tentativo per salvare l'azienda era facciamo lo scambio con l'Ilva. Quindi noi diventiamo gli unici produttori di nastro stretto in Italia speciale, all'Ilva le diamo le lamiere grandi per costruire navi, cantieri e robe varie. Non funzionò perché c'erano spinte politiche per far sì che la Falck chiudesse a Sesto. E Alberto decise di chiudere e Giorgio non era d'accordo. E lì ci fu frattura fra i due cugini. Non vedo come potessimo, una volta fallito l'accordo di specializzazione con l'Ilva, come potessimo continuare. C'era questa opportunità di uscita e diciamo che l'abbiamo utilizzata orientandoci sull'energia, prima la Sondel con la produzione di energia elettrica e energia termica, cioè vapore, e adesso le energie rinnovabili. I Falck hanno venduto avevano fatto un accordo con la Comunità Europea per chiudere l'azienda. A dimostrazione di ciò dovevano produrre pezzi dell'azienda che erano tutti inferiori a un metro. E quindi i cinesini vennero e tagliarono tutta l'acciaieria dell'Unione a pezzi inferiori a un metro. E numeravano tutti questi pezzi. Non nascondo che molti qui ridevano. Poi un giorno abbiamo scoperto che a Shanghai hanno ricostruito la Falck che oggi fanno concorrenza spietata agli acciai nostri. E quindi che in realtà quelli che avrebbero dovuto ridere erano i cinesi, non noi. Finito l'impero Falck, i due cugini saranno riuniti da un tragico destino. Tra il 2003 e il 2004 Alberto e Giorgio moriranno a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro. Con loro si chiude un secolo di storia italiana legata alla siderurgia. Sopravvive soltanto il progetto di Alberto, un progetto legato all'energia. Oggi la Falck è una delle principali produttrici di energia elettrica ricavata da fonti rinnovabili. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.